E siamo con Roberto e Sebastiano. Ieri non so se ragionavamo su che cosa realmente stiamo facendo ieri, questi giorni abbiamo ragionato su che cosa realmente stiamo facendo questi 5 giorni. Una cosa su cui abbiamo riflettuto è che comunque il nostro discorso fondamentalmente si vede in un'opera, non so, tante opere che fanno un festival, che anche chiamano un festival che sono abbastanza una definizione errata, forse per questo tipo di operazione. Ci manca la conclusione che forse è l'opera di sé nella sua complessità, nella sua interezza, nella sua completezza. Quindi l'opera artistica è iniziata mezzogiorno del mercoledì 7 ottobre fino a stasera. Quindi non abbiamo puntato sul discorso di una pista di punta, comunque un nome particolare, ci sono delle situazioni più o meno, cioè di quelle nostre posizioni, un'organizzazione assolutamente orizzontale. Poi alla fine arrivato qua questa cosa che fondamentalmente è un organismo che dura qualche tipo per 5 giorni e noi siamo tante piccole cellule di questo sorta di organismo, quindi l'opera va vista nella sua in tutti i suoi 5 giorni e tutti noi siamo come delle piccole formiche che lavorano per un organismo che è formicato. Quindi rispetto anche a delle considerazioni che su un set o l'altro, su un individuo rispetto a un altro, su un'attitudine rispetto a un altro, o anche sulle differenti attitudini che abbiamo ogni singola formica per fare il suo contributo per l'organismo. Possono chiamare noi, possono chiamare l'intenzione, possono chiamare alla fine c'è un movimento, una massa di gente, gente creativa e non solo, che realizza una cosa del genere. E comunque c'è da dire, secondo me, anche che Cagliari è molto, appunto, la situazione, no? Spazio musica è comunque, cioè, ha reso possibile organizzare le cose in una certa maniera qua a Cagliari. Però è da dire che tutto questo realtà, tutto questo movimento viene realizzato senza nessun tipo di supporto istituzionale o personale. Questo secondo me è una cosa che dice tanto su come viene realizzato questo. Anche se qua a Cagliari, per esempio, c'è un minimo di supporto per certe istituzioni che garantiscono un minimo di compenso dei costi, eccetera. Comunque tutti i resti vengono organizzati in una maniera abbastanza, con una politica abbastanza sfruttata. La cosa di Tiosov che questo secondo me è un punto molto importante di tutta questa situazione. Mi sa che tocca parlare alla gente che è più capace di me. È la rappresentazione di ciò che è irrappresentabile. di ciò che è rappresentato. Fermo qua. Tutto la patata bollente. Partirei da una considerazione sempre sulla base di quello che ha detto Stefano, anche l'introduzione che ha fatto Danilo, poi Luca e poi Sebastiano. L'idea che io ho percepito di questo progetto è appunto quella, diciamo, se vogliamo anche molto, molto sana, molto, forse anche molto controcorrente del mettere in comune. Non capitalizzare conoscenza, risorse e quant'altro, ma mettere in comune queste cose. E questo è sicuramente un aspetto, secondo me, estremamente positivo dell'operazione. Cioè, evitare la capitalizzazione della struttura non va bene, e provare a metterla in comune. Nel fare questo, però, a partire da quello che voi avete, cioè dal titolo che si è voluto dare anche a questo incontro, che tra l'altro non so chi è, neanche chi l'aveva deciso, ma andava benissimo qualsiasi titolo, no? Cioè, quindi mettere insieme improvvisazione, rumore, questi erano i due temi che venivano, su cui ci voleva accentrare l'attenzione e il discorso. Sulla base di quello che poi si è verificato durante questi incontri, mi sono venuto in mente una serie di riflessioni che per certi versi non vogliono essere un giudizio su quello che è stato, che sono stati questi 4 giorni, ma provare a mettere anche in questo caso in comune delle osservazioni per capire soprattutto, questo sarebbe particolarmente importante dirlo soprattutto in inglese, perché riguarderebbe sia i fruitori ma anche sia gli attori del multiverso. Il punto di partenza è che è centrato sul discorso dell'ascolto. Curare l'ascolto sicuramente, e questo ce l'ha insegnato e probabilmente ha iniziato a divulgarlo in una maniera molto più chiara e esplicita nella musica contemporanea, John Cage, significa curare la società. John Cage, come sappiamo, ha messo al centro della sua ricerca musicale l'ascolto, considerando lo stato patologico in cui l'ascolto è stato tradotto insieme alla civiltà di mercato, ma anche volendo uscire da quella dicotomia che vedeva insieme, o che vedeva noi insieme, che vedeva separati l'attore attivo e lo spettatore passivo. L'operazione, i famosi 4 minuti e 33 secondi di silenzio, fondamentalmente era questo. Però ho pensato che John Cage sicuramente anziché all'improvvisazione preferiva, o diciamo contrapponeva, perché ne capiva i rischi, la casualità. Perché? Perché io penso che improvvisare senza un progetto espone a un pericolo, che è quello di finire su strade abusate, abitudinarie, o alla fine perdersi nel già sentito, nel già udito. Ed è quello che in qualche modo ho avuto il sentore di percepire all'interno del festival. Cioè, nel senso che, allora, perché già improvvisare, cioè dovremmo proprio ragionare sul discorso dell'improvvisazione a partire dal discorso del fare l'improvvisazione, ma anche dell'ascoltare l'improvvisazione, cioè dal punto dell'attivo e passivo, però non volendo essere in questa dicotomia. Perché? Perché anche l'improvvisazione naturalmente ha una sua grammatica, che può essere anche quella del non avere regole. Non avere regole è già una regola, tipo non posso suonare una melodia, faccio un esempio. Cioè, il già non fare qualcosa è una regola, quindi nell'improvvisazione spesso, appunto, un po' contraddicendo il termine stesso, no? C'è una grammatica comunque, che può essere anche quella del non fare determinate cose. Però dipende, magari piuttosto che avere delle regole, cioè avere delle cose che non si possono fare, e sono proprio, cioè secondo me, per me l'improvvisazione è in qualche modo un modo di esprimere le proprie fantasie più sfrenate, in qualche modo. Però ecco, cioè, sì, no, capisco. Se la fantasia non ce l'ho, magari la melodia, per esempio, allora non esce fuori, ma c'è anche chi ce l'ha ed è fuori. Non ce l'ha una regola, in qualche modo. Cioè, c'è chi ragiona con le regole, ma non... Sì, però anche questa cosa della fantasia più sfrenata, spesso, almeno in certi casi, ho avuto la sensazione che si perdesse poi in una... cioè, c'è il rischio, non ho avuto la sensazione, infatti non ho dato giudizi, un'osservazione, cioè delle riflessioni le sto esponendo a voi, certo, così certo. Anche voi le integriate, che c'è comunque il rischio di una... spesso di un'autogratificazione narcisistica. Discorso per il quale, anche da commenti che ho poi percepito, che dicevano comunque sì, l'improvvisazione è molto piacevole per chi la fa, un po' meno per chi l'ascolta, perché proprio nel momento in cui la fai comunque sei attivo, cioè poni tutta la tua energia, la tua fantasia, butti fuori il mondo, che i segni che hai raccolto dal mondo e che diventano, cioè che è interiorizzato di voi e di voi, appunto, riutilizzare in una forma che è completamente diversa da quella che magari nei contesti in cui li percepiti. Però il rischio, appunto, è che poi o si possa finire in una autogratificazione narcisistica o in qualcosa che comunque poi corrisponde a qualcosa di già udito e di abitudinario, oppure volendo si rifare a un concetto di improvvisazione. Cioè il fatto che poi spesso bisognerebbe poi, appunto, ragionare un pochettino più in ambito probabilmente anche antropologico, per capire appunto dove il concetto di quello. In che contesto il concetto di improvvisazione si sviluppa e in quale contesto si può sviluppare. Comunque l'improvvisazione, che noi possiamo pensare che è legata, non lo so, alle tradizioni africane, è sicuramente diversa da quelle che sono sicuramente diverse da quelle che magari abbiamo incontrato noi, e certamente ci vengono da quel tipo di cultura che è stato ricordato nel jazz, eccetera, eccetera, però insomma poi si sono sviluppati in Europa in altri modi. Ma io infatti parlo di improvvisazioni anche all'interno soltanto di questa cultura, diciamo, nostra, nel senso che non vedo un solo tipo di improvvisazione, tipo anche nel nostro festival. Sì, sicuramente ci sono diversi tipi di... E improvvisazione non è sinonimo di qualità, cioè sono d'accordo, nel senso che si può ricadere in un già sentito o in una cosa narcisistica, però dipende anche dal livello di coscienza di chi suona, dipende anche dal... O chi ascolta. Dipende da chi ascolta, ma dipende anche dal, come si dice, anche dal momento. Magari lo stesso gruppo messo in condizioni diverse a cose che sono meno già sentite. Però secondo me è importante tentare, anche sperimentare, è quello che è importante. Ma cos'è il livello di coscienza? Il livello di coscienza? Sì. Conoscenza. Coscienza. Potrebbe usare, sarebbe magari un termine più giusto dire conoscenza oppure abitudine, perché comunque è una cosa, ascolto è un atto abitudinale, nel senso quelli che ascoltano la musica, per dire, nel senso, oppure il fatto che le persone diverse hanno diverse abitudini oppure gusti musicali. Uno piace ascoltare jazz, l'altro invece piace ascoltare musica classica, l'altro invece non può ascoltare nulla tranne quello che si è detto, rumore oppure noise oppure non musica insieme. Non è coscienza, secondo me, in questo contesto diventa più conoscenza di se stesso, comunque alla fine è quello che è. Magari mi sbaglio io, perché non so esattamente la definizione. Se la coscienza fosse una metafora o qualcos'altro. Cioè, voglio dire, qui stiamo particolarizzando il discorso. Io mi sembrerà strano, ma penso a Nietzsche, alla frase di Nietzsche, Dio è morto. E, ma se Dio è morto nella nostra cultura, c'è il genere che tutto è permesso. Io dico, se Dio è morto, tutto è proibito. Ma perché dico questo? Non è perché sono spostato verso una valenza giudaico-cristiana, per la quale ci hanno promesso la salvezza. Il discorso è che sei obbligato, ecco, e qui mi riferisco al discorso che facevi sull'improvvisazione. Improvvisazione significa libertà. Se significa libertà e Dio è morto, e comunque tutte le regole sono cadute, e non è più scusante per te, devi agire, sembra quasi che tu sia obbligato alla libertà. E quando lui parla di cultura, ma di quali pratiche di sapere stiamo parlando? E fino a che punto in questo obbligo della libertà esse sono fortemente implicate con il potere? Dove stiamo? Perché si tende a particolarizzare, sono diversi. Parliamo di coscienza. E però non ho risposto. La coscienza non ho ancora risposto. Sì, ma no, io parlavo della coscienza di, in questo caso, dell'attore, di chi suona. Perché parlavamo del risultato, cioè certe volte si parla dello scontato. Io dicevo, dipende anche dalla coscienza, cioè dallo stato in cui si è, da come si percepisce quello che si fa. Certo, uno si può smarrire se non ha la necessaria distanza, però anche dal... nel momento in cui suona, cioè se non riesce in qualche modo a vedere la musica da vicino e da lontano, però si può anche, con quella giusta distanza, con la coscienza di quello che sta succedendo, anche la coscienza sociale, il modo in cui si sta sviluppando. Ma tu continui a negare quello che io invece ho chiesto. Vedi, siamo così abituati a parlare di coscienza. Ma che cosa? cos'è sta coscienza? Una consapevolezza. O la coscienza è qualcosa che vela, ritorna a dire. Una consapevolezza. Consapevolezza. Sei consapevole. Ah, io non lo so. Consapevole in relazione a cosa? Voglio dire, in relazione a te soggetto che dice di avere una coscienza. Il soggetto. Ecco, poco fa parlavo di un corpo frantumato. Parlavo di organi, qual è la nostra coscienza? Quella che ti dà unità? Se ti guardi allo specchio fin da, che so io, dopo i primi 18 mesi nel tuo rapporto con lo specchio, dai unità all'immagine riflessa nello specchio, dai un senso di unità a te stesso, te che comunque sei fatto di organi e che non avverti nella loro unità. Ma dunque questa unità si costituisce nell'altro, riflesso allo specchio, nell'altro. Noi siamo prodotti dell'altro, tutti quanti, siamo nell'altro. Dove stai tu? Se sei nell'altro, non sai mai dove stai. E ogni volta che pensi di esserlo, sei sempre altrove. Ecco, dunque, coscienza, a questo punto. Coscienza a questo punto magari proprio non sapere dove stai, oppure cosa sei, oppure quello che vuoi fare. E per questo motivo anche questo tipo di espressione secondo me risulta com'è. Ma questa espressione è fortemente influenzata, inflazionata dai saperi nei quali ci ritroviamo. I saperi che pratichiamo. Beh, innanzitutto io separerei però il riconoscersi in qualche modo un'identità. Per questo lui parlava di non di un corpo, mi è sembrato questo che volessi dire. Parlavi di una manifestazione di organi e non di una unità. Però è l'unità che si porta alla coscienza. Non sono d'accordo. Sì, ma non abbiamo detto soltanto nessuno ha detto un corpo. Qua si tratta di una massa. E massa è comunque quanto si può concettualizzare, oppure quanto si può fare, scusate, le modalità di calendari. Su questo argomento comunque la storia fa sempre a vedere che la massa è che conta, nel senso, questo anche è un'affermazione secondo me abbastanza triste, perché purtroppo la massa non è mai stato quello che ha portato il migliore alla società oppure all'umanità o quello che. Però alla fine, senza i numeri, senza una massa, senza un peso, non c'è mai stato nessun tipo di cambiamento. E questo che si tratta. Sì, sono d'accordo che gli organi che. Trovavo un piccolo accordo, guarda. È che io non penso più mai a massa, non penso più a classe. Penso a guerre tra sessi, casomai, eccetera, e tante altre cose, però il punto in comune. Quello che vorrei dire è che alla fine tutte queste cose qua, quanto possono essere diverse, nel senso, qua, per esempio, le critiche che vengono dall'estero, oppure quello che dicevi prima, tipo. Che si ricade a quello che è stato già sentito, quello che è già stato fatto, eccetera. Comunque io non, almeno l'impressione che ho, tutto quello che sta succedendo sia a casa, sia nei posti precedenti, oppure sia in tutti questi anni di attività di tutta questa gente qua che conosciamo più o meno, nessuno ha le pretese di fare una cosa nuova oppure innovativa. Perché sì, questo poi è un altro argomento, se c'è rimasto qualcosa di nuovo da fare, una cosa nuova da proporre, eccetera, perché alla fine il postmodernismo ci ha fatto più su questo argomento. Perché poi sì, qualsiasi cosa è permesso, qualsiasi cosa si può fare senza regole. Avere non regole è già un regolo, tutto quanto qua. Questo nel senso non è, non c'è, secondo me, sì, magari parlando con i singoli si può fare dei discorsi, perché tutti hanno opinioni diverse ovviamente, però nel senso su quello che fanno, su quello che vogliono esprimere, su quello che vogliono e come vogliono esprimere, tutto quanto. Però alla fine non c'è un discorso filosofico oppure politico per sé in tutto questo contesto. È semplicemente l'unica cosa che conta è la gente coinvolta, quindi la massa, è l'azione basta. Nel senso quale, perché ovviamente nel senso anche per i miei gusti, cioè dei set, concerti, chiamiamolo come performance, chiamiamolo come vogliono, che erano più piacevoli oppure più facile per me per comprendere, per godere tutto quanto, come potrebbe essere diverse, giusti ascoltatori oppure attori, ma alla fine tutto questo perde la sua importanza, perché nel senso, per esempio, il collettivo francese che ci ha seguito da Danimarca fino qua, che poi purtroppo non possono continuare, perché all'inizio quello che avevo detto, questa cosa qua, tutti quelli che sono coinvolti mettono tutte le risorse che hanno, che possono mettere per realizzare questa cosa qua, quindi non possono continuare, però comunque il motto di questo collettivo, non posso dirlo in francese, ma praticamente per tutti, da tutti, no, fatto da tutti, con tutti, da tutti. Quindi questo è una cosa, non sono 100% d'accordo, però uno spirito, nel senso un approccio che apprezzo molto, perché alla fine non si tratta di singoli e non si tratta neanche per presuntuoso di dire sì per tutti e da tutti, quindi cambiamo il mondo, e viva, nel senso non siamo tutti da questo punto di vista. Si tratta soltanto di un'azione. L'unica cosa che vale, secondo me, su questo mondo è l'azione, perché tanta gente parla, tanta gente dice, scrive tutto quanto, che scrive anche comunque un'azione, un altro discorso, però comunque se non viene realizzato tutto questo, tutto quello che si dice alla fine non vuol dire nulla. Quindi quello che voglio dire è che secondo me si deve andare oltre ai piaceri personali, ai gusti personali oppure ai generi. Tutto quello che è, anzi, aggettivi proprio, bello, carino, brutto, fatto schifo, tutto, nel senso non c'entrano queste cose qua, perché anche a me fa tutto schifo, a me fa schifo anche quello che faccio io, ma nella coscienza, per esempio, tornando indietro, un passo indietro, coscienza a questo punto secondo me si tratta di queste cose qua, per questo motivo volevo dire conoscenza invece di coscienza, perché prima di tutto c'è, cioè, l'obiettivo secondo me dovrebbe essere conoscere quello che sta succedendo, quello che viene fatto, sia a livello personale, sia coscienza che conoscenza. Come? A questo punto preferisco coscienza che conoscenza. Eh sì, appunto, perché appunto vanno molto insieme, nel senso, no, non sono due termini così separati, almeno in questo contesto. Ma io sto cercando di dire una cosa diversa. Quando tu parli di conoscenza, vedi, ne parli sempre implicato all'interno di un sapere. E quello che voglio dire fondamentalmente è che noi in generale crediamo di usare il linguaggio, ma in realtà siamo strumenti del linguaggio. Ecco perché dire conoscenza, coscienza o quant'altro fa parte di una strutturazione del sapere. Tu hai usato anche il termine storia. Quale storia? In questa strutturazione dei saperi, in cui sono sottilmente, dove il sapere, finiamola di indicarlo come un qualcosa di tutto, come tendono a volerci fare credere, il sapere è fortemente implicato nel potere, per cui, ecco, dico, facciamo attenzione, non ci accorgiamo comunque di, o se no si rischia di essere gli alternativi fortemente assoggettati e catturati comunque nella dimensione del linguaggio. Quello che dà spinta invece, io credo, in queste azioni, ecco, e lì trovavo il punto in comune che avevo fatto dimenticato, è il ribollire di forza, quello che conta, il ribollire di forza. Però qui sono d'accordo. Concludo, ribollire di forza che poi si costituisce come atto creativo, ma come gesto simbolo. Però piuttosto che riconoscimento, quindi è importante il gesto, l'azione. Cioè questo che dicevo, come diceva la... siamo tutti catturati di conoscimento. Coscienza e riconoscimento. Per me coscienza è coscienza dell'azione, per me la coscienza è il movimento. Secondo me a questo punto stiamo fermando troppo sui termini e come così con il linguaggio che alla fine non è un linguaggio, come ti usa il linguaggio? Io sto parlando di una lingua che non conosco neanche te. Nel senso, come posso dire le cose come si deve senza cadere nelle... quello che voglio dire non era una cosa aggressiva, nel senso, certo che ci siamo lievitati con dice così, siamo degli strumenti di gioco. Ovviamente è così, nel senso, anche la parte uditiva di tutto quello che sta succedendo, comunque è molto limitato con il linguaggio che si utilizza, però il linguaggio che si utilizza comunque tipo, sapere, conoscere, magari anche lì si deve mettere un minimo di differenza, perché io posso sapere oppure conoscere una lingua fino a un certo punto, oppure un linguaggio, sia musicale, sia letterale, sia qualsiasi altra cosa. E questo ovviamente poi ricade sempre tipo a quella cosa che hai detto tu, nel senso quello che è già stato sentito, già stato fatto tutto qua. Però, nel senso, questo è la realtà dei fatti, funziona così. Tutti stiamo utilizzando, nel senso, parlando di qualsiasi cosa, quante volte stiamo utilizzando il verbo essere. La stessa cosa, nel senso, quante volte io posso dare un colpo sul rullante? Sì, posso intonare in diverse maniere, posso utilizzarlo in diversi posti, in diverse coniugazioni e tutto quanto. Sto parlando sempre del rullante. Nel senso, però alla fine è sempre il rullante, è sempre il verbo essere. E quindi, secondo me, non ha molto senso in questo contesto cadere su un discorso di... originalità. Non dialetto, ma modo di parlare, come si dice. Lingua. Non solo lingua, Linguaggio. Comunque. di vocabolario. Discorso. No. Continuiamo. Sì. Io sono finito qua con l'essico, quindi non riesco più. Io dissento da su molti punti. Quindi. Però penso anche che sia questa sia una delle forze, il fatto di avere tanti. Cioè per me, per esempio, più della massa sono importanti gli individui. Vedo che siamo tanti individui che hanno delle ricerche, alcuni molto originali. Per me l'originalità è molto importante. E penso anche che. Penso che un equilibrio di forza in questo collettivo, tra la forza anche distruttiva del tutti, di accettare tutti, di portare le persone dentro e anche accettare i loro limiti e anche il loro già sentito, e il nostro già sentito. E allo stesso tempo la ricerca dell'originalità. E quindi in questa dialettica tra queste due cose spesso ci sono cose molto interessanti per me. Sì, comunque io volevo dire, non penso che il problema, cioè anche il discorso che ho fatto prima, fosse un metodo leggermente frainteso. Quando parlavo di discorsi, di percorsi attitudinali, non mi riferivo al fatto, diciamo, contingente del ascoltare qualcosa che magari assomiglia a qualcosa che ho già ascoltato. Questo non lo vedo neanche come un problema, cioè, anzi, ma semmai mi riferivo alla produzione di senso, sì, che tutta l'operazione Universal ha, può aver prodotto sia da parte di chi ha performato sia da parte di chi ha ascoltato. Perché è così provo anche a trovare un addentellato tra quello di cui abbiamo parlato un pochettino in generale a livello anche di studenti musicali di improvvisazione con il noise. E cioè perché nella produzione di senso, come, sì, ripeto, sia come attore che come ascoltatore, la sensazione che qualche volta si è avuta è che partendo dal discorso appunto di massima libertà, che però può essere, come diceva anche Sebastiano, non lo diceva solo Sebastiano, ma cioè, la libertà può diventare anche una condanna a essere liberi, non so, nel senso di possiamo fare quello che vogliamo, ma perché ti pone proprio, come dire, ti può porre molti più vincoli di quanto probabilmente la parola dice o vorrebbe significare. È il fatto che e che quindi non ci dovesse essere discriminazione sonora, cioè nel senso che nessun suono dovesse essere discriminato. Qualche volta si ha avuto invece la sensazione che paradossalmente il noise, la costruzione del noise, avesse questa funzione poi invece discriminante, cioè certi muri sonori che sono stati costruiti, diciamo così, in certi casi, chiedo a voi che li avete prodotti, per voi che produzione di senso avevano? E non dico che senso avesse quella cosa, ma che produzione di senso avevano per voi e pensate aver avuto per gli ascoltatori. Allora, senso ne ha sempre. Quello è essere riconoscibile. No, nel senso, il mio discorso non è. Senso, nel senso, per questo motivo all'inizio ho detto postmodernismo ci ha fottuto tutti, perché nel senso adesso, oggi, si può contestualizzare qualsiasi cosa, nel senso anche è stato fatto poi, nel senso io adesso come una performance sonora mi posso mettere qua in mezzo, cagare proprio nel mezzo della stanza e chiamarlo arte, basta che c'ho un foglio A4 con una descrizione che concettualizza in una maniera decente, con dei riferimenti artistici, politici, storici, filosofici, tutto quanto, è buona lettera. Però stai forse un po' sviando, cioè la mia però, domanda è quello che volevo. Io invece vorrei tornare sull'argomento della libertà, perché nel senso, secondo me nessuno degli attori parlerebbe di qualsiasi tipo di libertà, anche questo, quello che viene prodotto può sembrare una cosa relativa alla libertà. Al contrario, noi non siamo liberi, e per questo motivo viene prodotto questa specie di sonorità. Nel senso, un esempio molto banale, non prendere personale, soprattutto se, però io ho dovuto tipo modificare uno dei miei set alla grande e l'altro non posso farlo. Sì, ma a causa dei vincoli, a causa dei vincoli esterni, capisci? Quindi non si tratta di una libertà. Qua siamo tutti vincolati, sono tutti vincolati. Nessuno mi può parlare della libertà, non esiste libertà. Società di oggi, il mondo in cui viviamo, non esiste una cosa del genere, è un'invenzione. Si poteva parlare magari prima del linguaggio, illusione, invenzione, chiamalo come vuoi. Ma in effetti io resterei l'asta del discorso. Direi invece di concentrarci sull'essenza di regole dell'improvvisazione, io penserei più alla scelta dell'improvvisazione, cioè perché improvvisiamo. Io personalmente ho scelto l'improvvisazione, non scegliere tra composizione e improvvisazione, dopo un percorso e dopo aver suonato generi musicali che contemplavano mista improvvisazione o solo composizione e improvvisazione, ho scelto che per motivi estetici, per arrivare dove volevo arrivare, l'improvvisazione mi era più utile, perché con l'improvvisazione riuscivo a fare al momento delle cose che con l'improvvisazione non riuscivo a fare, e mi interessava quindi improvvisare, e penso che ognuno di noi abbia un motivo per cui ha scelto l'improvvisazione, che non è semplicemente l'assenza di regole, per poter avere l'improvvisazione è pro e suoi contro, così come la composizione c'è proprio il suo conto e la riproduzione di composizione. Quindi sarebbe interessante parlare di questo, su questo di essenza di fare di regole, si tratta sicuramente di una configurazione diversa di regole. In più c'è da aggiungere assolutamente, nel senso, anche se si parla di improvvisazione a livello performativo, comunque c'è una composizione anche ben studiata, questo. Nel senso, da strumenti autocostruiti oppure dai setup vari che tutti gli attori hanno esibito in un modo o nell'altro i loro lavori, nel senso, comunque c'è uno studio, ragionamento e a questo punto si può dire anche composizione di quelle che come si vuole realizzare le cose. Nel senso, non è una cosa soltanto, perché a questo punto a me sembra che usiamo improvvisazione oppure composizione come se fosse, sì, ok, un pezzo scritto, composto, cantautore, questo è una composizione, invece tutto il resto non è. Non è così, perché anche nell'improvvisazione ci sono dei diversi modi di nostra scuola, nel senso, si sono scritte una centinaia di libri sull'improvvisazione, come che si è scritto sul vino, visto che abbiamo avuto un paragone a questa cosa qua. Nel senso, non è una scuola, c'è cioè un modo e basta. Magari è molto più importante direzionare l'uso dell'improvvisazione come termine su questo ambito qua, perché sì, l'improvvisazione potrebbe essere anche adattamento a quella situazione che c'è nella situazione attuale. Quindi non regole, regole non è quello, secondo me è piuttosto relativo all'ambiente in cui si realizza questa cosa qua, è ambiente che coinvolge anche spettatore, anche attore, e anche lo spazio, e anche il circuito di elettrico che c'è nel posto, che a volte ti attacchi e c'è così che devi suonare con quella roba lì, devi lavorare insieme con quella roba lì che è fuori il tuo controllo. Speakers that are burned, you would end up with teatro, maximum technical stuff that is like breaking. It was the not balls. Necessary to do that. Just going crazy and starting. When I'm speaking about a wall of noise, it doesn't mean that must be something loud necessary. No, but I'm can be also yeah, small. But the term you're using is very yeah, specific. You should play. You have the term you're using, wall of noise, noise wall, or harsh noise wall. These are specific terms within the noise genre. And I'm taking what you're saying to if you're doing something extreme, take it to the extreme. That's what I understand from what you're saying, yeah? And you have to have the courage to take it to the extreme. It's not a discussion about courage. It's a discussion about, that's what I said, we're not free or we don't have liberty to do whatever fuck we want. Because if we just don't mind anything and just go with the guts we have, with the courage we have, then you would have very serious problems. And this was the compromise that all these musicians had to do in these days. For some it was no problem because their extremes are different, you know? So it's fine, it's easy to handle in different spaces as well. But considering the spaces we had, like even here, which you have almost the total freedom, yeah? Between virgolette and the apostrophe. It's not possible. Because, it's not an argument, it's not a discussion about courage. Courage, of course, we can talk about that. It's one of the main problems of the modern life. Nobody has courage to do anything. But this here, within this context, it doesn't have anything to do. It's a respect thing. If I don't respect you, and whatever comes with you, you know, like the neighbors, the limits of the PA or whatever, you know, I can just fuck it up and go on my way, and it's okay, you know? Then I have the courage. But then you would hate me. You would say, oh, what an asshole. Yeah, but I was it's a very thin line in this what you were saying. Okay, you're talking maybe musical choices and how it goes and so on, but it's all related, that's what I'm trying to say. Yeah, of course. This music or non-music or whatever is getting realized. It has courage. Nobody can say to me that it lacks courage. I wouldn't accept this because it's the most one of the most daring things is happening in the modern. In nowadays music scene, in nowadays art scene. Because everybody who are here, they're giving so much to do this. And that's their life, you know? So it's like a sect. It's not courage, it's that meaning. I was not, your understanding what I want to say. My musical point of view, not by... The musical point, the music is affected by the space, that's what I'm trying to say. Yeah, that's okay. And affected by the conditions. But I'm not speaking about the space. But you're speaking about two different things, I think. Because you feel like you've been accused of not being enough extreme. But what he's actually saying, it's more like aesthetical. Yeah. Is he saying this time that you used to do this wall of noises, you didn't keep it until the end, and I wouldn't like that. So I would say that you should play today and do it, because it's kind of your fantasy. And what we do normally when we have this kind of fantasies, we do it ourselves, for example. And this is also how this thing works. Yeah. That's so why everybody is doing what they're doing, because they're not happy with what the other people are doing. Or because they have a fantasy that they want to realize. Even if they are happy with what the others are doing. Actually, I think that this fractured organ ensemble, this fractured hands that are building this hand here, actually the freedom starts and ends instantly, instant by instant, of the condition, the environment we are facing. So I think this arts we as all, I think all we have the arts here. We the courage is where when you we face this environment. Once you face the environment, it's a big courage. Considering all the dangerous part that this society, instant by instant, put you, make you facing on, you know. So, don't think it's a question of courage or shape of the composition, whatever. It is, there is no limit. Yeah, but I was speaking about courage in that meaning. For instance, just to make probably more clear with one example. And so it's not a critique, it's not a, it's a, just a suggestion to art more about what was going on during the festival. I think of the set in which they were playing Utku, the singer, I think was, and Gitar, if I remember. Yeah, it was Theo and Victor. So you were? Too. Yeah. Okay. That was very strong, continuous noise, no? And it was fine. I like it. But I was asking why it was necessary to put the drums, for instance. Because it was... Because it's my project. Because it's your project. Okay, so explain me why, by your point of view, it was necessary to have drums in the... Because I play drums and I want to play drums on top of a harsh noise wall. And I mean, again, you know, like, I mean, it goes back to the point where, I mean, yes, probably it wasn't the right place to exhibit that work. Because, apart from we had to do like many rounds carrying the speakers up and down, da da da da da, you know, like that kind of project, you play on a different stage, and when you play on a different stage, when the sound is different, then it starts to make sense. Of course, in a situation like that, you have to adapt the music, you have to play different way, da da da. Maybe I didn't. Doesn't matter. But you cannot really question why it is like that. Why not? As I said, you know, I can do anything. I can come in the middle, take a shit, and then call it art. The only thing, I mean, if you want, we can really... you are taking it like I was, it's a critic, not a critic, it's just a understanding which don't kind of, what kind of... production of sense, all of you were aware or not, because also this is part of improvisation, not just by musical point of view, but by ethic, by way to be in general. So, coming back to what Sebastian was telling in the beginning, like organism, or like... I think the main reason which I can really agree with Sebastian, I think what he said at the beginning, it's a narcissistic thing, okay? I play the music I want to hear. I try to play the music I want to hear. There are other musics that I want to hear, that I enjoy, and I'm happy that many of them were also involved in this whole organization. But apart from that, there is nothing else. I'm a narcissistic, self-orientated person, and I'm happy with them. And I don't have problems with them. And don't try to change me. And no, it's not about trying to change or anything. I mean, today calling, why you do it that? I mean, there can be answers to that. That's the main thing with artists, to say why. Yeah. I mean, I'm definitely not doing what I'm doing to please the audience or anybody else than me. And maybe the people that I play with. What do you say, sir? Just enough so they continue playing with me. Okay. I don't know what to say. For me, this is like drumming, especially in this video, would drive me. That's what drives me. The sound is there, but then I travel with the drum. But from my other one, I'm not speaking about the specific example, just in general. What do you? For me, what I like in this project is the fact that you meet all the time different people, and then you have to open your mind, you have to open your ears. And it's like you go in the street, someone will start to talk to you, you don't know this person, so you try to find a way to communicate. Whatever the words you use, the sign you use, just not try to use. Share a lot, share more, and be at the same level for a little part of time. Same with music. And when it's happened, then there's a space. It's just built during part of this space. During kind of communication. Yeah. If you're in the act of doing something, you kind of already answered the question why you're doing it. But I think especially in an art world, especially when there's money in it, then the discourse is about how does it, and what is worse, it's about how does it benefit the society, or what's the point of doing this, and it's not really a satisfying answer to that. If it's good. If the art is good, it doesn't need a reason to do it. It's against what it is. I agree. That's why I say now just with that said for me. With the drum was too good. Yeah. You know, I want something nasty. It was disturbing me this way, but this is just subjective. I mean, it's just taste, so it's not the important. You know why it was disturbing you? Because Wall of Noise was not loud enough. Probably. Yeah. Scusate, io non so parlare in italiano perché non so parlare in inglese. Excuse me. No, no, ma we can translate. I'd like to give an answer in a like, musical way, because you asked him why you wanted to have drums on it. Because like, if you take out the drums from that music, it's like a totally horizontal going on, you know, texture, right? And drums or any other kind of percussive sounds would create more vertical lines. That's fine. But if they use a vertical music, he wants to join the band. Yeah. But apart from this, it's totally the matter of taste, you know, like, yeah, you know, just to be specific, it's the only question that could be given, I think. Yeah. But in fact, it was not, that's just taste, but sometimes I have feeling like the feeling, and it could be also taste, this too, that there was a kind of horror part. I mean, fear of emptiness in the set. So fear of what? Sorry. Fear of the sound could be empty. Uh-huh. You know. So it was like always noise. That's okay, but it was like in some way. Maybe if it was not in the intention, it was a kind of discrimination of some other shapes and particularity of the sound. That was the feeling sometimes. I'd like to say something on that. I disagree with that idea in on a couple of levels. One being that I think that emptiness is achieved in many things. And I think even in a wall, there's emptiness because there's always above. And also to talk about how forms and things. What you can find in a wall, because we're talking about a wall, but it wasn't a wall. It was millions of images, and it was thousands of forms, very, very fast. Very, very, very full, and I think that it, for example, it gave me an opportunity, just like silence gives me an opportunity to reflect on certain things, to create those images in my mind, to create those relationships with the sounds, and there were dynamics that inside, and they were small, but I think it's about attention, and I think it's about getting at being sensitive. Because we're so used to just being given things, and being given things where we're told, okay, this is what this is. But if we can cultivate our sensitivity, yeah, and our sensitivity to find those images that maybe are tiny, teeny tiny, and amplify them in ourselves. I mean, that's the power. That's something that we have. That's incredible. And I don't think we have to rely on emptiness or on silence, because it's all there, and it's always there. We just have to learn to change our perception of where to find it and to search for it in different places. That's exactly what I meant at the beginning with the habit, actually. Because once you're used to listening a harsh noise wall within you, like you really actually start to see the different nuances and different dialects or the ways of using it. I mean, if you go to a harsh noise festival, you know, everything can sound the same for somebody who's not used to it. Okay, that's you know, you go there and it's like all the time, yeah? Like 20 acts, all like 5 to 10 minutes, you know, like you have this brutism, for example. In Nancy, it's a 20-hour festival, and almost only harsh noise. And like, of course, if you're not used to it, it's going to sound like, yeah, it's all the same bullshit. It's like 24-hour. No, it's not. There is when I was saying also konosha, like knowing, it's about that, like, because then you have an idea of the different nuances within this mass, you know. And the same goes for this, I think. I mean, of course, like, ah, yeah, there's no melody, there's no rhythm. No, of course there is. It's just you have to... You have to get the habit to hear it, you know. Like what Travis was saying now. Like without knowing, without having a minimum knowledge about this scene, like of course you're not going to get that. But that's what serves like listening to this and having this many sets that are improvised or not. You know, there are projects. I agree with you. For example, when you said, like for me, when you were mentioning like the danger of non-projects. Improvisations, yeah, because that's also what I think. That's what I also don't like about the free improvisation scene, because it's not free improvisation apart from having rules and so on. You know, it's like all the musicians go there, they have their luggage, you know, their tricks, their sounds. They go there, they play the same shit with whoever they play, in different places or whatever. But again, that's one thing that I don't like, but it also doesn't mean it's less valid. No, it's the same argument that I did about the snare drum and the verb that we use like more than ever. You know? The originality is since the snare drum is always a snare, you cannot have so many variations to be really original or innovative. But you say like the verb being, but how many different books have been written with that verb? Yeah, exactly. I mean, that's why we have like artists like Moni the here using only snare drum. It can fit within different contexts, within that didactic or dialect that he has, you know? It doesn't, of course, like, you hear it, it's the snare drum, so. But it's of course recognizable. But there is, to hear the differences, it's a matter of learning. And you learn only by doing or listening more and more. Scusate, io credo che probabilmente in inglese non sono scarsissimi, non c'è lui. Ah, ok. Io credo che, ritornando al discorso della libertà, cioè di quello che poi alla fine si fa in improvvisazione, secondo me, la mia opinione, ma questa libertà non è altro che una libertà combinatoria, per cui non è una libertà essenziale, non è che io manifesto la mia libertà di essere vivente oppure cerco di allineare ciò che io credo, penso, la mia azione politica, estetica e cerco di riportarla in un discorso di azione artistica, creativa, qui termine. No, aspetta, appunto il fatto la libertà sta nelle combinazioni. Tu citavi prima il postmodernismo, che non è altro che la libertà di poter attingere da contesti diversi, elementi diversi ed inserirli in un nuovo contesto. Quindi non è un fatto di essenza, non è chi io sia, ma cosa io faccio e quante combinazioni che sono infinite possono tirar fuori, per esempio, una situazione come questa. Allora, quella è una libertà che a me interesserebbe approfondire di più, non una libertà in senso lato, una libertà assoluta. Quella è chiaro che è illusoria, così come è illusorio anche ricombinare continuamente questi elementi, ma nella loro combinazione infinita, nelle loro infinite declinazioni, lì c'è un margine di libertà attuata. E quello, secondo me, è un campo veramente ancora freschissimo, tanto che c'è ancora qualcuno, dopo 1903, che chiede come mai i limiti di quello strumento vengano portati attraverso quei filtri, come mai i limiti di quell'espressione scelgano di stare fuori dal tempo, fuori dallo spazio, come mai? Nel momento in cui c'è qualcuno che domanda queste cose, l'azione è assolutamente riuscita, io credo, perché sono più di 100 anni che questa cosa non diventerà mai mainstream, non diventerà mai orecchiabile alla portata di un'unica comprensione, quindi di un'unica definizione, che sia di genere, che sia di gesto, che sia di collocazione artistica, e questa è la sua rivincita su se stessa. Cioè è già una motivazione, nel senso che questa capacità combinatoria continua e continua anche nella nostra cultura attuale, che è molto difficile da definire. Si può definire solo il tipo di cellule, perché quell'unità che diceva Sebastiano si è persa da moltissimo, tutto il Novecento è frammentazione di quell'unità, in ogni sua manifestazione. Quindi noi ci accontentiamo della capacità, della possibilità liberatoria, libertaria e libera di combinare. Ma combinare che però... non è un limite, è proprio va all'infinito. Certo. È anche la combinazione di piccoli elementi che sono invisibili, poi vengono ritirati su come un po' come facciamo tutti con le equalizzazioni, no? Noi abbiamo un'equalizzazione standard in cui tutte le frequenze sono ad una media, ad un medio volume, e a un certo punto si sceglie di staccare alcune frequenze da altre, creando delle differenze dentro un magma sonoro che fanno differenza tra il magma iniziale e quello che sta procedendo. E nell'improvvisazione si procede per delle scelte che creano in una materia che è anche uguale a se stessa sempre, ma quelle piccole differenze che creano quello che diceva Travis, che è una massa in continua trasformazione, in continuo movimento e quindi vitale. E all'interno del vitale, quindi della continua trasformazione, c'è tutto quel margine di libertà, che è un margine di libertà, ma nasce dalla combinazione, e tutta l'arte postmoderna non è altro che questo: estrarre da un contesto e o inventarsi o inserire in un altro contesto. Il discorso che facevi tu di cagare in mezzo a questa stanza, preparare un foglio A4 con delle buone motivazioni, non è altro che spiegare all'interno di, cioè nell'infinita possibilità di comprendere quel gesto, di staccarlo, di alzare delle frequenze e di abbassarne le altre, non è altro che questo. Cioè, quindi la libertà non è altro che veramente, dato che siamo in un contesto di musica elettronica, faccio l'esempio dell'equalizzatore, perché penso che tutti sappiamo come si usa e quali sono le sue infinite possibilità. Maybe we have to translate something in English. Sì, scusa. D'accordo con quanto diceva lei riguardo a questi margini di libertà, ed era il discorso che forse qui non lo so, sembrava come se dovessi fare un discorso intellettuale, ma io ritorno a insistere su Dielmark e dunque all'obbligo della libertà in cui si agisce. Con questo ritorno a dire, non è che io voglia dare credito a una visione giudaico-cristiana, dunque vabbè, se Dio è morto allora non c'è più promessa alla salvezza. Voglio dire soltanto che tutto è proibito per lo stesso, nell'obbligo di scegliere, nell'obbligo della libertà, appunto, laddove ci restano dei limiti di demarcazione, dei quali parli tu, di margini di libertà, in queste linee di demarcazione, è un discorso estremamente complesso, questo, perché quello che agisce in noi, poi fondamentalmente, che siamo tutti quanti nella credenza, i comandamenti cristiani, comunque, come discorso c'è nel testo, agiscono e lì la forzatura, cioè è nella forzatura di cui immagini che c'è la libertà, si stime il meglio della libertà, perché è una libertà compressa dentro uno spazio. Io la chiamo quell'eccesso, quello che c'è, eccesso che c'è in Augusto e che noi vogliamo come eccesso, ma che diventa la mancanza di possibilità di raffigurare, è irrappresentabile, è irraffigurabile, quello che la chiave chiama il reale. Non ma guarda, lo so, e che comunque ti attraversa fondamentalmente. E allora, ecco, poi trovare i margini di libertà su questa condizione, bisogna coglierli comunque nell'atto di perdita nella quale siamo sempre tutti quanti noi viviamo il paradosso e attraverso il paradosso siamo abitati dalla lingua, dove non esiste una fase prelinguistica originaria come vorremmo tutti quanti, che è il regime di verità o la ragione di verità nella quale siamo tutti quanti assoggettati. Noi siamo, e insisto, ancora, siamo strumenti del linguaggio, in questo senso. Allora non creiamo, decostruiamo, però. Infatti, più che parlare di composizione, io parlerei di decomposizione. Di decomposizione, io sono d'accordo, però. E potremmo parlare anche di disumano, cioè non nel senso di disumano rigido. Dovremmo incominciare a pensare a quello che è possibile fare, al di là del Dio come soggetto pensante, che è un'astrazione. È un'astrazione. E allora dico. Ma dal momento che siamo tutti quanti immersi e assoggettati, quali sono le nostre procedure di pensiero? Quando pensiamo a durata, quando pensiamo a spazio, quando pensiamo ad altezze, o il suono che cattura questi momenti, in ogni caso, che abbiamo costruito noi, in ogni caso. Allora diventa... Diventa estremamente interessante. Quello che diventa estremamente interessante è la spinta, e lo ritorno a dire questo, del nostro desiderio del desiderio e non dell'oggetto del desiderio. Ma il problema è, noi ci vogliamo, cioè, vogliamo tendere a risolverci attraverso le nostre azioni o semplicemente ad essere attraverso le nostre azioni? Perché io non cerco una risoluzione, cioè una soluzione a questo scollamento. Semmai tutto ciò che succede appunto nel Novecento è proprio un'affermazione di questo scollamento. E va bene, nel senso che chissà dove stiamo andando, è semplicemente tutto un mutamento, basta prenderne atto e continuare a fare quello che stiamo facendo. Come fa a parlare di un neologismo che ha inventato da caso, e che è iocrazia. Ecco, questo il mio invito era proprio. Questo, cioè, diciamo di quando parliamo di improvvisazione, parliamo di un'ora, di qualcosa, non parliamo mai di fatto del linguaggio nel quale siamo assoggettati, per il quale parliamo di coscienza, parliamo di conoscenza, quando poi la coscienza, ritorno a insistere, è una velatura di quel qualcosa che ci attraversa, di qualcosa che è eccesso, di qualcosa di irraffigurabile. La nostra presenza ha il compito di pelare questa però il linguaggio, scusami, qui scusa, smetto di però il linguaggio è anche convenzione, se non ne conveniamo tutti insieme il linguaggio non esisterebbe, per cui è chiaro che c'è anche una scappola nell'idea di convenzione, perché ne dobbiamo convenire tutti, per cui è chiaro che siamo schiavi e anche padroni di ciò che in cui, cioè della regola linguistica in cui noi tutti noi ci inseriamo per esprimerci, quindi il cane morde la coda. No, io dico semplicemente che non accettiamo la nostra condizione paradossale di essere soggetti alienati. Allora, qual è l'unica possibilità, se dobbiamo parlare di possibilità, di compiere una torsione, di mettersi di traverso? Ma è illusorio pensare di uscire da un sistema. È costruito con le parole il fuori e il dentro. Sì, è una costruzione di parole, io questo sto cercando di dire, che è una costruzione di parole. Ma è bellissimo, perché le parole sono costruite, cioè non può essere le parole è come essere dentro un palazzo e pensare di essere nel cuore di una montagna. Un palazzo ha una sua economia di pensiero che l'ha costituito, che è quella che assomiglia a noi. E la montagna no. La montagna è l'altro. Se arrivati proprio a una metà. Se siamo arrivati alla metafisica, sempre montagna, stiamo cercando di fare un discorso che sia essenzialmente non metafisica. Queste cose è una delle motive, nel senso, se siamo limitati con le conoscenze, come che non tutti possono esprimere le loro opinioni in lingue comprensibili, comunque, anche se dicessimo tutto in inglese, nel senso, nessuno qua, cioè, magari una persona che è di lingua madre inglese. Comunque, però, su irraffigurabilità, che è già seconda volta che ha detto, tipo, non voglio fare un discorso cristiano, tutto quanto, irraffigurabilità di qualcosa altro oltre che fa trasversale a tutto quanto. Sì, non è cristiano ma è islamico. Io lo so. Nel senso, va bene, tornando un passo indietro. No, però con questo discorso, che siete chiaramente e inconsapevolmente eurocentrici, nel senso sempre chiusi e ottusi nella stessa cosa del superiore, del cervello occidentale. Scusate, però è nato altro oramai. Nel senso, non è nel rituale. Non capisco questo tipo di osservazione, peraltro chi se ne esce mentre parla e sbatte chiude la porta, poi alla fine è una di quelle che sbatte di più di tutti quanti. No, sta facendo un discorso desio. Ma certo, ma abbiamo già concordato. Ma questo l'abbiamo già detto. La valenza del superio agisce profondamente come carabiniere su di lei. Ma sì, questo l'abbiamo già concordato, che siamo soprattutto gli attori di tutta questa faccenda qua sono dei narcisisti egocentrici e io centralizzati e basta. E poi è anche ovvio, è anche ovvio. Ma quello che voglio dire che il discorso comunque che stavamo facendo era strutturato nell'ambito occidentale. E appunto, perché anche la lingua di cui parliamo è così, è limitato con questa cosa qua, anche se parlassimo in inglese, quello che volevo dire. Nel senso, qua si tratta, stiamo parlando di un'altra cosa che è più relativo ai modi di espressione. E per questo motivo anche all'inizio ho detto, vabbè, sto parlando in una lingua che non è né mia, non posso parlare, nel senso non c'ho una lingua mia. L'unica cosa che posso fare è suonare che una cosa mia, credo almeno, anche se condizionato da mille altre scuole, movimenti, tutto quanto, oltre che le scuole che ho fatto veramente. Però alla fine quello che voglio dire, siamo tutti condizionati e non si può parlare. L'unica libertà di cui potrei andare d'accordo era la possibilità di combinare le cose. E oltre a quello, per rispondere alla tua domanda anche perché c'è una batteria in quel cavolo di progetto, sì, perché un progetto che deriva da metal, deriva da diverse forme di rock e deriva nell'ambito noise. E comunque questo richiede un pulso, non so se è una pulsazione, e questo viene dato dalla batteria. Per questo, nel senso, lei ha spiegato tante cose, tutto quello che dicevo sul concezionalizzazione, so che non esiste quella parola. Possa inventare qualsiasi cosa che voglio, perché questa è la libertà di cui si può parlare, perché non c'è altro, siamo tutti vincolati e condizionati. Sì, sì, è chiaro, però nel senso, comunque l'analogia che facciamo, nel senso, perché scusate che prendo una posizione un po' magari difensiva nei suoi confronti, però lo capisco, perché comunque io, non essendo di Europa, non parlando di non parlando una lingua europea, nel senso, questa cosa qua è visibile, è molto ovvio che tutta questa concentrazione sull'Occidente è modi occidentali di dire, come dire le cose, come fare le cose, e incluso la musica. Sì, perché però, tutti stiamo andando a dire che stiamo cercando un po', scusate, di andare al di là di una visione new age dal buddismo occidentale. Ma no, ma sì, ma comunque la filosofia, tipo, tutto quello di filosofia che si vede come valida, e comunque niente altro, ma vedersi in alto, so che stiamo uscendo un po' di discorso, però nel senso tutto questo approccio viene dall'ego superiore dell'Occidente. Tutto quello che appartiene. E per questo motivo siamo così concentrati sul linguaggio, per questo motivo siamo così concentrati alle forme, ai generi, oppure che ne so, oppure termini. Tutto il punto iniziale di questo, tutto questo discorso, nel senso è un po' quello, perché comunque, se posso permettere di dire, da uno che segue tutto questa faccenda qua, dall'inizio fino alla fine, è proprio lo scopo è quello, uscire fuori da questi termini, da queste convenzioni e tutto quanto. Sì, i vincoli ci sono sempre. Ovunque che vai c'è qualche vincolo che ti condiziona di fare le cose in una certa maniera. Però oltre a quello, tutte le, di nuovo, scusatevi della volgarità, però, le pippe mentali che possiamo fare. Perché le chiami pippe mentali? Perché non siamo degli accademici. Ma certo, tu stai facendo l'accademico nel momento in cui le chiami pippe mentali. Tu sai che distinguo. Che sei cazzi? Mi sembrava, scusa. È la verve. Chi mi conosce? No, tranquillo. Non mi dispiace che no, no, anch'io sono un po' distante. Però io voglio dire la tua cosa. No, facciamo la pippe. Di torno incontro la parola, cioè che probabilmente poi si è parlato del fatto della lingua, del fatto che appunto nessuno di noi poi parla, cioè io parlo italiano, sì, sì, siete sardi e noi siamo italiani, possiamo, però probabilmente c'è un napoletano, ecco, probably the most difficult thing for us is not that I don't speak very good English, or you don't speak very good Italian, or whatever. But by my point of view, it's the most difficult thing is to learn, no, to speak a foreign language in our proprio language. Cioè, parlare una lingua straniera nella propria lingua. E questa è la cosa più difficile, e forse quello che dovremmo fare, cercare di fare. Cioè, è molto difficile. Totale, no, è proprio difficile parlare una lingua straniera, cioè dovremmo utilizzare la nostra lingua madre come una lingua straniera, è questo che è difficile. Conoscete Laurie Anderson? Sì. Ha detto un pezzo molto bello. Si chiama Language Spires. Ok, e questo quando parlo di lingue, in questo senso, perché poi alla fine abbiamo capito che le parole che utilizziamo, anche volendo uscire dal linguaggio, siccome siamo parlati dal linguaggio, cioè per cui siamo sempre in scatto, il linguaggio ci mette sempre in scatto, c'è poco da fare, nel momento in cui noi vogliamo uscire ci rimette in scatto, perché alla fine quello che dobbiamo utilizzare sono le trite parole che abbiamo, cioè non ne abbiamo altre, ok? No, aspetta, però qui c'è da fare un inciso ulteriore, perché noi siamo tutti qui per suonare, quindi noi un linguaggio per dire le nostre cose l'abbiamo già trovato. Sì, però anche all'interno del linguaggio musicale. Fuori dal contesto, cioè stiamo trovando un'isola in cui si può anche usare un altro linguaggio, per dire delle cose che tutti noi abbiamo scelto di dire, un'altra lingua. E poi, sì, un discorso che non era comprensibile questo l'altro linguaggio che veniva proposto. Sì, ma qualsiasi linguaggio tu utilizzi, l'inizio del discorso era questo. Qualsiasi linguaggio tu utilizzi, comunque, è sempre, come dire, è sempre un insieme di segni che tu hai imparato da fuori, quello che a noi chiamiamo realtà, che qui non sappiamo se è realtà, però per convenzione diciamo che è realtà. E se poi andiamo a indagare esattamente che cosa è la realtà, non sappiamo, non riusciamo vivi. Perché se guardiamo certe leggi della fisica, queste cose qua ci mettono in fianco anche il concetto di realtà che abbiamo, però per convenzione sappiamo che questa deve essere la realtà, insomma, per noi in questo momento. Perché poi invece sappiamo che ci sono delle cose anche in musica che esistono ma che noi non fanno parte della nostra realtà, ci sono dei suoni che noi non percepiamo perché non abbiamo la capacità di percepire e quindi per noi sono irreali, però sappiamo che invece esistono, ci sono lo stesso, magari gli animali li sentono, noi no, quindi cioè sono reali e lo facciamo. Questo discorso del fatto che comunque siamo parlati dal linguaggio e non possiamo uscirne perché stiamo in scacco comunque, è l'idea che dobbiamo cercare, è interessante come sperimentazione provare a parlare una lingua straniera nella nostra propria lingua. Questo vale anche per il discorso musicale, per cui le conoscenze musicali che abbiamo possono essere accademiche, non accademiche, autodidatte, questo non è importante, la musica non è che ha bisogno di essere istituzionalizzata da questo punto di vista. Forse anche in quello cerchiamo di fare, di utilizzare, e questo il fatto di non discriminare i suoni ce lo consente, di utilizzare anche, cioè di fare in modo che non passi l'idea che molte istituzioni fanno passare, ci sia una forma di innatismo armonico, non esiste. Di cosa? Innatismo armonico, cioè che ci sono delle strutture armoniche musicali che sono innate in noi. Ah, innatismo? Innatismo, sì. No, non ci sono. Cioè, perché il fatto che una melodia per me possa essere più gradevole all'inizio, adesso è solo una questione di cultura, cioè secondo me noi parliamo troppo e c'è poco. Posso dire una cosa? Io concordo con lui. Io anni fa avevo fatto un workshop con Phil Minton, non so se lo conoscete, sì. È uno sperimentatore di inglese. Il suo workshop si chiama proprio Fair and Choice, lui parla. Insomma, praticamente l'uomo ha una bestia dentro che lui cerca di aprire la gabbia per tirarla fuori. Io quello che mi ha dato quel workshop a livello di linguaggio è stata la tabula rasa, cioè io lì ho capito l'improvvisazione dopo questo workshop, perché non avevo più le impressioni e i codici, sono stati smontati e ho capito quanto poteva essere bello il linguaggio di improvvisazione nel momento in cui i codici sono stati annientati. Quindi tutto questo discorso sul linguaggio, io credo che tutte le persone che sono qua a rumoreggiare, quei codici li hanno manomessi, in un modo o nell'altro. Certo, per fortuna. Questo è quello che penso. E dico anche un'altra cosa, rispetto alla coscienza. Prima si parlava di unità, adesso magari parlo poi in linguaggio quasi psicanalitico, però secondo me il linguaggio di improvvisazione è una cosa che è molto attinente. Si parlava di unità, di coscienza di unità. Secondo me il linguaggio dell'improvvisazione, del noise, è un linguaggio di coscienza della propria frammentazione, ovvero l'opposto dell'unità. Però di unità di coscienza chi è che ne ha parlato? Sebastiano. No, non in quei termini. Io qua ti ho detto, la sto un po' virando sulla psicanalisi. Sì, ma anche la psicanalisi non è che lui ha parlato di unità di una coscienza. Insomma, quello che proponeva lui quando parlava di improvvisazione era proprio questo, diceva dove sei come un musico. C'è già con quello per chiedere. Adesso ci insegniamo. Per me è partito da di dati di un morto, cioè l'unità, l'unità. No, secondo me non va inteso in quel modo, non è inteso in quel modo. La coscienza è frammentata. No, lui ha parlato proprio di unità. E non c'è niente di più frammentario sia in discorso so want to change it, we can just attach it. Yeah, but the pulse is also base, yeah. So I can plug on the PA and on both. Abbiamo questo bisogno di unità, ma perché siamo questo? Perché l'unità si configura come qualcosa di genio, come qualcosa di che sia con l'uomo della verità, dal quale infatti tutto il nostro siamo capaci di lasciare. Ma non ha importanza, ovviamente tutto questo è anche occidentale, perché se poi il discorso si sposta sulle logiche di usuario su allora le cose cambiano prima di vedere il tavolo eccetera eccetera. L'amore di parlare non è parlare per dire qualche cosa come in Occidente. Tu hai senso in Occidente se il tuo dire non dire qualcosa. Questo qualcosa appartiene a una unità originale. Ma grazie a una coscienza che cerca di velare il caso di quando è posto. Allora, nella logica orientale, tu non guardi per dire qualche cosa. E a questo tipo di filosofia non è vero che si può dire. Cioè il logo orientale, orientale è veramente logo si vuol dire quindi a seconda come possiamo decifrare la differenza dell'approccio logico su cui ad oggi è fondata la nostra società rispetto a quella di Lozu il fatto c'è alguna cosa che posso più un'altra rispetto alla logica paradossale infatti quella che viene dalla logica orientale che dice vedo questo e questo non mi fa più della vista di questo la logica nostra su cui si fonda la nostra società è la aristotelica che appunto viene dopo tutto il discorso tratto che quei ragazzi dicevano della frammentazione del Dio è morto teoricamente si dice che con Socrate muore Dio per tutto il pezzo di Nietzsche no? Questa impressione della verità non era giusto perché cioè non è che l'orientale parla di sempre parlare cioè è proprio una pezzo di logica paradossale diciamo così la frase voglio dire che la storia è proprio qualche cosa e la frase di non si pone in termini di obiettivo e obiettivo è questo che sto cercando di dire noi nel nostro modo di parlare dal punto di vista sintattico usiamo un soggetto usiamo un sostantivo un aggettivo e soprattutto un predicativo è o non è Secondo me, di contraddizione poi fondamentalmente nelle politiche quali siamo. O è vero o è falso. Noi siamo in un regime di verità. Quali sono i luoghi della verità che costituiscono i nostri saperi, le nostre pratiche di sapere? In quali luoghi siamo assoggettati e catturati? Ed era un discorso che conduceva alla visione occidentale di una inocrazia, laddove io, dice Lacan in maniera estremamente interessante, non è falso chi si si mette uno scolapasta in testa e dice io sono re. Sì. È più pazzo di Dio, dice, che è re e crede di essere un re. Non so se è chiaro. E questa è la logica di una tradizione. Completamente incardinati e assoggettati. È lì che si crea la dimensione di dominati e dominanti. Attenzione, laddove è sottile il discorso del potere, perché lì si instaura la logica del riconoscimento da parte dell'altro, a cui tutti siamo assoggettati, tutti abbiamo bisogno di essere riconosciuti. Allora su che cosa cerchiamo questa riconoscenza? Io cerco di riconoscermi in te, avendo un desiderio che possa entrare nel tuo desiderio. Io sono riconosciuto desiderando il desiderio dell'altro. No? La logica capitalistica è che il desiderio si centra su un oggetto in cui il desiderio si confonde con il godimento. Quindi tanto che l'oggetto, scusate, finisco, l'oggetto non lo godi mai. Questa è la logica capitalistica, dove siamo informati tutti e dove si forma il rapporto dominanti e dominati, dove i dominanti scelgono, attenzione, di essere vittime di relazioni carnifici. Noi facciamo i discorsi delle lotte di classe, poco fa parlavo di lotta di sesso, laddove il genere maschile, il genere femminile, come sapete, anzi facciamo fatica a comprenderlo, è un fatto culturale. Noi ci distinguiamo soltanto anatomicamente queste condizioni. È questo che sto cercando di dire. È inutile ricondurre il discorso sul. Ma io non lo so, Danilo, io quando tu hai sostituito, io ritorno a dire, hai parlato di cose. E tu invece intendevi dire non vicino a un come corpo, secondo me. Parlavi di un corpo che non è corpo, ma disperso negli occhi. Sì, diciamo che era più un'idea di corpo sciame. Sciame vabbè, era uno sciame di movimenti scorriamo di sottolineare proprio questo, come invece inconsapevolmente cerchiamo di dire no, dell'unità, cioè bisogno in questi dell'unità, dell'originale, di entrare in un regime di verità che da secoli ci governa. È questo che sto cercando di dire. A parte il fatto, dico, abbiamo parlato di Oriente comunque, stiamo parlando di antichità. Anche se pensiamo all'Oriente di oggi, se pensiamo alla Cina, al Giappone di oggi, scusate, che sono fortemente intricati nella logica capitalista, nella teoria, nei rapporti di noi. Beh, però secondo me bisogna fare una distinzione tra centro e periferia, perché sono i centri, sono le città, sono i urbani che sono la provincia, l'estremo, capito? Il provinciale, quello che sta lontano dai centri, dai sistemi urbani. Ancora forse rispondo con un paradosso. Sì. La misura del centro dovrebbe essere centro-estremo. E siamo fra guardi, l'immagine dello specchio, guarda, immagini su questa metafora dello specchio, perché ci dai il primo concorso dell'Iran. ci dà il contorno di unità, ma tu costruisci la tua unità su che cosa? Sull'immagine di ciò che in te è autentica. Pascaro ci ha scritto un libro ateo. Come? Pascaro ci ha fatto viaggiare un personaggio attraverso, avanti e indietro. Cioè, ma ti rendi conto che tu sei nel luogo? Ora qui non è per parlare di te, ma sei nel luogo della tua assenza. Bravo. Cioè, non siamo padroni a casa nostra in realtà. Lo Stato siamo noi, ma noi non siamo lo Stato.